piano. Di Enrico Ruggeri. Una delle cose a cui io tengo di più è parlare di calcio cercando di interessare anche le persone che non sono propriamente dei tifosi, per esempio il nostro amatissimo pubblico femminile, e quindi in realtà la cosa è fattibile a patto che si parli di grandi uomini, di grandi avventure, di grandi pulsioni, di grande spettacolo. E devo dire che in quest'ottica, secondo me, non c'è terra più fertile dell'Inghilterra per trovare delle storie che vanno al di là dei risultati. Inghilterra e Sud America, ecco, forse per dirla correttamente, bisogna trovare persone che hanno vissuto una storia che è molto di più di una partita di calcio, qualcosa che ha lasciato un segno. E allora andiamo dagli inventori del calcio moderno, che a volte magari in maniera anche un po' aristocratica e forse spocchiosa ha vissuto una specie di isolamento volontario. L'Inghilterra per decenni ha snobbato le competizioni internazionali, sfidava quella che vinceva il campionato del mondo, ma giusto per concessione. Poi in realtà si sono accorti che c'erano delle squadre più forti di loro che giocavano un calcio competitivo quanto il loro, e quindi poi in realtà il calcio inglese a livello di nazionali, per esempio, ha conquistato pochi trofei, uno solo, è il mondiale del 66 di cui stiamo per parlare. Ma oggi raccontiamo la storia di un calciatore veramente un simbolo, un signore, dovrei chiamarlo Sir, anzi lo chiamerò Sir, uno che ha indossato solo una maglia, quella del Manchester United, ha indossato la casacca bianca della nazionale inglese, un uomo considerato esempio di correttezza, di fair play in campo, di sobrietà, insomma uno dei migliori giocatori inglesi di tutti i tempi e non solo inglesi, Sir Bobby Charlton. E andiamo subito in una di quelle cittadine minerarie del nord dell'Inghilterra, cresciute attorno alle miniere di carbone, con uomini che si spaccano la schiena a centinaia di metri di profondità, con le donne che stanno a casa a accudire la famiglia. Questo paese si chiama Ashington, è qui che l'11 ottobre del 1937 nasce lui, Bobby, il secondo di quattro figli maschi. Il padre, l'abbiamo detto, è un minatore, la madre ha un altro carattere, lei fa Melbourne di cognome, un cognome che nel calcio di allora vuol dire tanto, perché i fratelli della madre, George, Jack, Jim e Stan, sono tutti calciatori professionisti, vedete però che anni diversi, quattro professionisti, e la sorella deve aspettare il marito che gioca in miniera, oggi ne basta uno per sfamare linee collaterali, generazioni. Comunque la Melbourne Family è qualcosa di importante in Inghilterra. Naturalmente la loro sorella, quindi mamma Melbourne, è contagiata dalla passione per il calcio, è lei che trasmette questa passione ai figli. Well, coming from a football family. Sono cresciuta in una famiglia votata al calcio. Cosa vi aspettavate da me? Quattro fratelli che giocano nei professionisti. È logico che anche la loro madre fosse una fanatica di calcio. E dei quattro ragazzi Charlton ce ne sono due che sono più dotati degli altri, sanno già portare la palla, dribblare, attaccare, difendere. C'è Jack, il maggiore dei due, e poi c'è Bobby ha un talento naturale per organizzare il gioco, è uno di quei calciatori che sa vedere dove gli avversari non vedono, in più ha un tiro molto preciso, è uno che dispensa assist ai compagni già da quando è ragazzino. Lui si distingue già a scuola per la sua bravura. Bene, tra il pubblico c'è un allenatore che sta cercando nuovi talenti, e il nome di questo allenatore è Matt Busby. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Ho voluto giocare con la musica perché i signori che hanno appena finito di cantare la canzone sono due grandi tifosi del Manchester City e invece qua si va dall'altra parte della città, perché Matt Busby sta portando avanti un progetto molto ambizioso: creare una squadra giovane costruita andando a scovare talenti di 15-16 anni. Naturalmente in questo caso sono anche i genitori che possono decidere il destino di un figlio, di un potenziale campione, perché se loro non danno il consenso per lasciare la famiglia e andare in un'altra città, la carriera può essere solo un sogno. La città di cui stiamo parlando, l'avete capito, è Manchester, Manchester United. Alla fine della partita a cui sta assistendo Matt Busby, il suo assistente Joe Armstrong scende in campo e si avvicina al ragazzino Bobby Charlton. Somebody said to me, there's a scout from Manchester United. Qualcuno mi disse: ci sono quelli del Manchester United oggi, sono venuti a vedere te. A fine partita si avvicinò Joe Armstrong, una brava persona, e mi disse: ehi Bobby, quest'estate quando finisce la scuola vorremmo che venissi a giocare da noi a Manchester. E io risposi: ok. Era la prima volta che prendevo una decisione e la mia scelta fu il Manchester United. Manchester United è una di quelle maglie che ti rimangono appiccicate addosso, soprattutto in quegli anni. Molte volte abbiamo parlato di attaccamento alla maglia, di giocatori che trascorrono tutta la loro carriera in un'unica squadra. Bene, qui siamo davanti a un ragazzino che a 15 anni sta per legare a doppio filo la sua vita con quella casacca, la casacca dei Red Devils. La madre, lo abbiamo detto, è una grande appassionata di calcio, sogna per i suoi figli un futuro da calciatore lontano da quelle miniere, e così acconsente al trasferimento. E non è un camp estivo, è l'anteprima di un trasferimento che viene ufficializzato il 1 gennaio 1953, quando Bobby Charlton firma per il Manchester United. Entra a far parte di quell'incredibile gruppo che la stampa chiama già The Busby Babies, i ragazzi di Busby. Conoscevo i Busby Babies, avevo letto di loro sui giornali, sapevo che era un gruppo di giovani talenti, tutti nati nella seconda metà degli anni 30. Ma io non pensavo di essere bravo abbastanza da poterne fare parte. Sapevo che era una grande sfida per me, ma il Manchester United aveva fama di essere un posto dove i giovani calciatori potevano imparare. Era il posto giusto per me. E del gruppo fa parte un altro ragazzino che arriva dalla provincia, si chiama Duncan Edwards, è un giocatore dal fisico imponente, forte, dotato di grande intelligenza, è simile a Bobby Charlton. I due sono quasi coetanei e fanno subito amicizia, un'amicizia che comincia a dare i suoi frutti anche in campo. E negli anni che vanno dal 53 al 56, Matt Busby lavora su questo gruppo di giovanissimi giocatori, i Busby Babies, insegna loro a diventare dei calciatori completi. È come un padre che insegna la tecnica e che sa creare uno spirito di squadra fortissimo. Insomma, piano piano arrivano i primi risultati. Bobby Charlton debutta nell'ottobre del 56 contro il Charlton, doppietta sua, gioca come esterno sinistro inizialmente, segna 10 gol in 14 partite e intanto i Red Devils vincono il campionato. Bobby è potente, è agile, ha un tiro eccezionale, sa colpire di testa, la scuola della strada gli ha insegnato a destreggiarsi tra i difensori, a tenere incollata la palla al piede, a fare i dribbling, ma lui sa anche usare il cervello, sa scardinare le difese, sa inventare passaggi imprevedibili con i quali riesce a pescare i compagni con precisione millimetrica, il tutto con uno stile, un'eleganza inconfondibili. E intanto il fratello gioca anche lui a pallone, però è un altro tipo di calciatore, è un duro, gioca a stopper. Erano gli anni in cui il numero 5 marcava il numero 9. Bobby fa pochissimi falli, invece affronta gli avversari tranquillamente, senza falli di reazione, senza farsi strada a gomitate. Lui ha la classe, ha qualcosa in più degli altri. Intanto arriva il 1957, è un anno importante perché si gioca la Coppa dei Campioni. Nessuna squadra inglese ha ancora vinto una Coppa dei Campioni. Le sta vincendo tutto il Real Madrid, poi arriverà anche il Benfica. Il Manchester vuole essere la prima squadra inglese a sollevare quella coppa e loro, i Busby Babies, sanno di essere in grado di farlo. C'era l'eccitazione della prima volta, era un'avventura da scoprire insieme. Ricordo Matt Busby che ci ripeteva di continuo: questo è il futuro, e non vedeva l'ora di iniziare. Siamo ai quarti di finale, la partita di andata si gioca a Manchester 2-1 alla Stella Rossa di Belgrado. Erano anni in cui il calcio jugoslavo era molto forte. Il ritorno finisce 3-3, il Manchester si qualifica con molta fatica. La sera del 6 febbraio 1958 la squadra, il Manchester, si sta preparando, sta prendendo un aereo per tornare in patria. È una notte che tutti gli appassionati di calcio ricorderanno come una delle pagine più tristi. La federazione inglese è ancora poco attenta all'importanza della Coppa dei Campioni, non ha adeguato il suo calendario agli incontri europei. Non è come adesso che una squadra gioca il sabato, al venerdì, pur di farla riposare per la Champions. Allora bisogna rientrare velocemente, perché bisogna subito disputare una partita di campionato. Si affitta un charter, l'aereo fa uno scalo tecnico da Belgrado a Monaco di Baviera, fa molto freddo, la pista è coperta di ghiaccio, l'aereo al decollo non riesce a prendere quota. Quando la pista finisce, urta un piccolo edificio e si spezza in due. A bordo ci sono 44 persone, il destino fa un testa o croce terribile, poco più della metà, 23 muoiono nell'incidente. E tra questi ci sono 8 giocatori del Manchester, uno di loro è proprio Duncan Edwards, l'amico fraterno di Bobby Charlton, e morirà dopo 2 settimane di agonia in ospedale. E per Bobby Charlton è una tragedia terribile che ha colpito un ragazzino appena ventenne. Bobby Charlton diventa adulto in quel preciso momento, sa di essere stato fortunato e sa che c'è un solo modo per onorare la memoria dei suoi compagni, è quello di continuare a giocare per i Red Devils e inseguire nuove vittorie. 2 settimane dopo l'incidente, con una squadra composta da riserve, da giocatori presi in prestito, Charlton porta il Manchester a vincere contro lo Sheffield in una partita in cui tutta la città si stringe attorno a quello che resta dei Busby Babies. Naturalmente il sogno della Coppa dei Campioni è rimandato, il Manchester viene eliminato dal Milan che perderà in finale contro il solito Real Madrid, ma per Bobby questo momento è solo un nuovo inizio verso una seconda vita e il suo scopo è onorare il ricordo dei suoi compagni, coronare il sogno di ogni calciatore professionista, vincere tutto per loro. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di uno dei più grandi calciatori inglesi di tutti i tempi, un giocatore intelligente, di classe, di tecnica, anche di potenza. È la storia di Bobby Charlton, un uomo corretto dentro e fuori dal campo, ma in realtà stiamo raccontando soprattutto la storia di una promessa, di un fuoco interiore che è nato dopo quel fuoco che aveva distrutto una squadra che avrebbe potuto dare tanto, il Manchester United. La tragedia di Monaco di Baviera del 58 ha lasciato solo un manipolo di giocatori pronti assieme a Matt Busby a onorare la memoria dei loro compagni cercando di andare a vincere tutto con quel Manchester United. Bobby Charlton è un sopravvissuto, è un ruolo difficile, se ne è parlato tante volte anche psicologicamente, perché non a me, e il suo modo di reagire a questo destino atroce ma benevolo dal punto di vista della sopravvivenza è una missione, è la missione di onorare la memoria dei suoi compagni per conquistare quei traguardi che a loro sono stati negati da questo destino ingiusto e crudele, soprattutto il suo amico del cuore, è sì quel Duncan Edwards che divideva con Bobby tutto ma non ha diviso il destino. Duncan Edwards non c'è più, Bobby deve andare a vincere anche per lui. Dopo l'incidente non sapevamo come fare, ma sapevamo esattamente cosa fare. Restituire alla città di Manchester la sua squadra e onorare il ricordo di chi non c'era più. Il 3 maggio 58, tre mesi dopo l'incidente, c'è la finale di FA Cup contro il Bolton, e vincerà il Bolton, perché lo abbiamo detto, il Manchester United in questo momento è una squadra raccogliticcia, pochi giocatori e molti giocatori in prestito o ragazzini, insomma c'è ancora molta strada da fare, ma in quel momento tutti applaudono i Red Devils perché li stanno vedendo lottare lì a Wembley in una finale persa, e in Inghilterra si applaudono le finali perse. E passeranno ancora 5 anni di duro lavoro, e poi arriva la prima coppa, la FA Cup. Questa volta il Manchester vince, e poco dopo si torna a vincere anche in campionato nel 65 e nel 67. È un puzzle che sta lentamente formandosi, perché cominciano ad arrivare le prime vittorie. Nel 66 intanto è arrivato il pallone d'oro, e tutte queste vittorie non cambiano lo stile di vita, l'atteggiamento di vita di Bobby Charlton, diversamente da un suo compagno di squadra che si chiama George Best. Lui sì che viene travolto dalla gloria, dalla fama, dalle donne, dalle macchine, dall'alcol, ne abbiamo già parlato. Bobby Charlton invece è lo stesso, è l'umile figlio di un minatore che vuole giocare al calcio. E lui ormai è uno dei migliori centrocampisti del campionato inglese. Certo è un po' in secondo piano nel resto d'Europa, perché non arrivano le coppe, però arrivano i mondiali in Inghilterra. In quegli anni l'Inghilterra aveva partecipato a qualche europeo, a qualche mondiale, ma non era mai riuscito a ottenere dei risultati. E nel 66 però si gioca in casa, l'occasione per vincere la prestigiosa Coppa Rimé è finalmente alla portata dei ragazzi, con i tre leoni sulla maglia. People don't remember this. Almost. Forse non tutti lo ricordano, ma nei 3 anni precedenti l'Inghilterra non aveva perso una partita, neanche una. E avevamo giocato in Europa, in Sud America, ci davano per favoriti e noi lo sapevamo. And rightly so. Si parte lentamente, un pareggio con l'Uruguay, e poi però si gioca contro il Messico, e lì Bobby Charlton comincia a far valere la differenza. Nice Charlton, Bobby Charlton, hunt on the right, maybe a shot from Charlton, we're trying. Questo è il primo dei 2 gol con cui l'Inghilterra ha battuto il Messico. Charlton, che prende la palla a centrocampo, avanza con sicurezza, poi cambia passo, arriva al limite dell'area, scocca un tiro fortissimo che va all'incrocio dei pali. È l'inizio di un cammino che porterà l'Inghilterra fino a una storica finale contro la Germania. È il 30 luglio 1966. E l'Inghilterra sta vincendo, ma al 90esimo succede alla Germania, è successo anche a noi, un signore che si chiama Weber segna il gol del 2-2. Bisogna andare ai supplementari. E qui c'è un episodio che passerà alla storia come il gol fantasma. The linesman says no. It's a goal. È andata così. Arst, che si invola, tira, la palla colpisce la traversa e rimbalza sulla riga, al di là o al di qua. L'arbitro all'inizio dice che non è gol, poi arriva un russo, un guardaline, che gli fa cambiare idea. Naturalmente non esiste la VAR. È il 3-2 che spiana la strada alla vittoria dell'Inghilterra. 4-2, Arst segnerà ancora e farà 3 gol in quella partita. È un altro traguardo raggiunto da Bobby Charlton nella sua personale rincorsa verso le vittorie mancate dei suoi amici, i Busby Babies. Il falco e il gabbiano. La vittoria ai mondiali del 66 certifica in tutto il mondo che il calcio inglese di quegli anni è tornato ad altissimo livello. I giocatori che conquistano la Coppa Rimé in patria sono considerati degli eroi. Beh, quella era una grande Inghilterra. In porta c'era Banks e c'era il fratello di Bobby, Jackie Charlton, che dirigeva la difesa. C'era Bobby Moore, c'era Arst, che fece la tripletta di cui abbiamo già parlato. Però è evidente che il simbolo di quella squadra, il capitano era quello che ci ricordiamo ancora oggi, cioè Bobby Charlton. Adesso per Bobby Charlton è il momento di pensare al suo Manchester, perché c'è una vittoria da inseguire, quella che avrebbe maggior significato per la squadra, per la città, per l'Inghilterra tutta, la Coppa dei Campioni. E il 1968 è un anno importante perché il Manchester tenta per la seconda volta la rincorsa alla vittoria della Coppa delle Grandi Orecchie. Sì, perché ha vinto il campionato l'anno precedente. Nessuna squadra inglese, l'abbiamo detto, è riuscita a arrivare in finale. Ormai sono passati 10 anni dalla tragedia di Monaco. I ragazzini di Busby sono diventati degli uomini. La finale si gioca a Wembley, in un campo parzialmente amico, perché è vero che siamo in Inghilterra, ma insomma il Manchester a Londra non è che sia visto così di buon occhio, però bisogna provarci a tutti i costi per giocare e vincere. Ci abbiamo provato tante volte, ma non siamo mai arrivati alla fine. E quell'anno in semifinale ci toccò il Real Madrid, che allora era considerata la squadra più forte del mondo. Ma noi dovevamo vincere a tutti i costi e alla fine li battemmo. Il Manchester si è qualificato, deve andare a giocare la finale contro il Benfica di Eusebio. Ci sono delle foto bellissime scattate negli spogliatoi alla fine della partita. Sono delle fotografie di Matt Busby e Bobby Charlton che si abbracciano, che piangono dalla felicità. Loro sanno perché. Ma quelle foto non sono quelle della finale, sono quelle scattate dopo la semifinale. Sono già felici, hanno sentimenti sinceri, emozione, hanno centrato un traguardo mai raggiunto prima. Adesso ci sono 90 minuti prima di entrare definitivamente nella storia. La storia in quel 68 si scrive in una fresca serata di maggio. 92.000 spettatori è la notte di Manchester United Benfica. United have got Benfica on the run now. Sadler, Charlton, a goal! He scored! Un cross di Sadler, al centro area c'è Bobby Charlton che salta, spizza la palla che finisce in rete e in quella partita non poteva non esserci la sua firma. Ma a 10 minuti dalla fine il Benfica pareggia, si va ai supplementari. Ma nel Manchester, non dimentichiamolo, c'è un altro genio del calcio, perché noi di questa finale abbiamo già parlato quando abbiamo raccontato la vita di George Best, che segna il gol del 2-1 alla sua maniera. Prende il pallone a centrocampo sul rinvio di Stepney, del portiere, scarta la difesa portoghese e deposita la palla in rete. Poi segna ancora il Manchester Kid, ma le grandi opere devono avere la firma dell'autore. Così al 100° minuto Bobby Charlton sigla il definitivo 4-1. Il Manchester United ha travolto nei supplementari il Benfica di Eusebio e si porta a casa la Coppa dei Campioni. Quel 1968 sarà un anno irripetibile per il Manchester United, almeno per qualche decennio. Non riesce più a centrare nessun obiettivo quel Manchester e inizia un periodo di flessione, come minimo, anche all'interno della squadra. Non c'è più quell'aria meravigliosa e forse Matt Busby, una volta raggiunto il suo scopo, come dire, non ha più quel sacro fuoco. Forse è tutto il Manchester che si è seduto su quella vittoria meravigliosa. E poi ci sono i due giocatori più rappresentativi, Bobby Charlton e George Best, che entrano in conflitto. È un conflitto inevitabile. Charlton col suo fair play, con la sua grande tecnica, ma anche col suo, come dire, modo di vivere, non può approvare le sregolatezze di George Best, le lunghe nottate a bere champagne, whisky. Insomma, lo scontro è inevitabile. I due finiranno per non parlarsi più. È alla fine del 73, con Best che se n'è già andato da tempo, Bobby Charlton si ritira dal calcio giocato, lascia quella maglia numero 9 del Manchester dopo averla indossata per 17 anni. Poi farà il testimonial per altre squadre inglesi per qualche anno, giocherà anche qualche partita, come dire, insignificante, rappresentativa, ma il suo cuore rimane a Manchester. Ancora oggi, guardando una partita del Manchester, quando viene inquadrata la tribuna centrale, spesso si vede Bobby Charlton. The first gentleman of football makes his last appearance in the Football League. Bobby Charlton coming out to mark this momentous occasion. Bobby Charlton non ha mai fatto l'allenatore, ve l'ho detto, è rimasto a fianco del Manchester United, diversamente dal fratello Jackie, che ha fatto l'allenatore anche con buon successo, l'abbiamo visto sulla panchina dell'Irlanda, per esempio. Ma davanti all'Old Trafford c'è una statua, la chiamano la Santa Trinità degli United. La statua raffigura George Best, Dennis Lowe e Sir Bobby Charlton, i tre giocatori che a Manchester hanno fatto la differenza e sono quelli che sono rimasti nel cuore di tutti i tifosi del Manchester United. Cosa curiosa è notare che Dennis Lowe aveva giocato anche nel City, eppure allo United lo amano come un dio, come Best, come Bobby Charlton. Sono tre dei grandi Busby Babies. Una storia nella quale il calcio diventa classe, esempio di vita, ma diventa soprattutto la promessa solenne che Bobby Charlton aveva fatto davanti alla tragedia del 1958, davanti ai suoi compagni che non hanno potuto vivere la sua epopea. Noi vi aspettiamo con altre storie segnalate via mail al falcoilgabbiano@radio24.it. Se conoscete qualcosa che merita di essere raccontato, oppure seguitemi, interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei, sui nostri social, insomma, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Dodo Chipinti, produzione a cura di Luigi Speciale e Chiara Compagnoni.